Santa Rita. Voglio riguardare che vive e che è cristallo per sempre, ma è già morto. E puis tout d'un coup, c'est important. Tenere lo sentimento, lo sguardo, e vedere qualcosa dell'altro pezzo di spentolita. Regarde, regarde pas. Es durch die Augen. Der Blick. Thank you. caché dans un arbre.